son come stelle, brillano negli occhi tuoi quando mi guardi, i tuoi vent'anni son come fiori, sbocciano sulle tue labbra quando mi parli. Stringi forte le dita sui tuoi vent'anni, domani finirà anche il tuo carnevale, i tuoi vent'anni sono le mie pene, quando tu ridi e non vuoi donarmi un bacio. Stringi forte le dita sui tuoi vent'anni, domani finirà anche il tuo carnevale, i tuoi vent'anni, i tuoi vent'anni, perché tu non vuoi regalarli a me.